Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Garante, ma soprattutto un saluto ai nostri amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, oggi con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e naturalmente un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, oggi parliamo di questa notizia di qualche giorno fa e parliamo di evasione fiscale. Sì Francesco, è un argomento molto delicato, un argomento insomma di cui si parla spesso in Italia e anche dagli ultimi dati che sono stati forniti dal Ministero possiamo notare insomma che l'evasione in Italia è ancora elevatissima, addirittura secondo appunto gli ultimi dati in un anno sono stati evasi 87 miliardi di euro e di evasione fiscale, quindi che è una cifra davvero enorme perché corrisponde a almeno a una manovra governativa, a una manovra finanziaria, per cui è sicuramente una cifra che ci lascia perplessi e che ci fa pensare. Però chiaramente Francesco, quando si parla di evasione si può ragionare in varie direzioni. E la prima cosa su cui noi riflettiamo un po' da tempo e insomma cerchiamo di lanciare anche per quanto possiamo degli appelli al governo è quella ovviamente riguardante l'eccessiva pressione fiscale che c'è in Italia. Possiamo dire però di contro che anche questa eccessiva pressione fiscale deriva dal fatto che qualcuno le tasse non le paghi. Questo ci fa capire una cosa, insomma, che se, non dico tutti, perché a questo punto sarebbe praticamente un miracolo, però se riuscissimo a recuperare almeno la metà di questi 87 miliardi che vengono evasi, riteniamo che insomma per tutti sarebbe un vantaggio, perché si potrebbe pensare finalmente ad alleggerire la tassazione sulle spalle delle famiglie. Leggevo che la tassa più evasa è l'IVA. Infatti, come si legge da questa relazione, la regina dell'evasione resta dunque l'IVA, che nell'ambito di questi 87 miliardi appunto si attesta a 35,4 miliardi di euro di evasione, che è appunto quasi un'intera legge di bilancio. Ci rendiamo conto che già riuscendo a recuperare una parte di questi soldi riusciremo ad alleggerire la pressione fiscale per tutte le famiglie. Tra le tasse più evase, tra le imposte più evase subito dopo l'IVA, c'è l'IRPEF con 30,7 miliardi di euro e poi l'IRES con 10,1 miliardi di euro. Sono cifre enormi, sono cifre pesanti e noi riteniamo quindi che chiaramente una seria lotta all'evasione possa andare appunto a vantaggio di tutti e soprattutto possa andare a alleggerire quella tassazione odiosa che insiste soprattutto sulle abitazioni e sull'automobile, che chiaramente è una tassazione odiosa perché va a colpire migliaia di famiglie con anche importi molto elevati. E di contro resta il fatto che tante persone invece evadono le tasse, quindi a svantaggio di chi invece le paga in modo regolare. Ecco, Francesco, noi come associazione dei consumatori diciamo che appunto lo Stato, il governo devono condurre una grande battaglia contro l'evasione fiscale, perché lo scopo è quello veramente di andare a alleggerire la tassazione che noi notiamo quotidianamente essere veramente troppo elevata per le famiglie, le quali molto spesso non riescono a pagare anche per dire il bollo dell'auto o a pagare il condominio, tanto per dirne una, perché evidentemente ci sono delle cifre troppo elevate. Io penso semplicemente al bollo dell'automobile, anche quella è una tassa abbastanza evasa, tra virgolette, però dopo la regione abbiamo potuto notare che va a recuperarla in modo abbastanza incisivo, quindi andando a richiedere poi i soldi con relative sanzioni e con relative more agli automobilisti. Però resta il fatto appunto che se riuscissimo veramente soprattutto a combattere l'evasione sul fronte dell'IVA, sicuramente sarebbe un vantaggio per tutte le famiglie e potremmo alleggerire finalmente questa pressione fiscale che in Italia è davvero eccessiva. Sì, sono d'accordo con te. Notavo da alcuni dati che ho a disposizione che, per esempio, un'altra tassa che era molto evasa, che era il canone televisivo, adesso con la scusa della tassa nella bolletta elettrica, praticamente adesso ci sono molti più soldi che sono entrati per la tassa radiotelevisiva, e questo poi dovrebbe in qualche modo anche aiutare l'editoria in generale. Sì, ecco, diciamo che in questo caso l'escamotage di inserire il pagamento del canone nella bolletta elettrica ovviamente è riuscito a diminuire di molto l'evasione. Qua stiamo parlando del canone, speriamo insomma che si riesca anche a ridurla in altri settori e quindi andare a ridurre la pressione fiscale e anche soprattutto continuare in quella battaglia che purtroppo non è stata più portata avanti, di ridurre il più possibile il cuneo fiscale, quindi quella differenza che c'è tra quanto per esempio il lavoratore dipendente prende dal datore di lavoro e quanto tira fuori effettivamente il datore di lavoro tra stipendio e tasse da pagare, che sicuramente è uno dei problemi più grandi, perché ovviamente voglio dire, per i lavoratori sarebbe un grande vantaggio riuscire a mettersi qualcosa di più in busta paga, e per il datore di lavoro sarebbe un vantaggio pagare qualche tassa in meno, ovviamente. Certo. Quindi ecco, il nostro appello, l'abbiamo già fatto altre volte, è quello di riuscire veramente a fare una seria riforma fiscale e ovviamente a non abbandonare mai la battaglia contro l'evasione. Va bene. Allora, per ulteriori informazioni, dettagli, insomma, se volete anche scoprire qualche numero, c'è la notizia anche nel sito dell'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca Codognato, a tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.